si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, stiamo insieme fino alle 10. Cominciamo con un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8, poi inizieremo con i nostri approfondimenti. Oggi cominceremo con un non si può fare, quello degli esuberi all'azienda di call center Almaviva, dove ci sono quasi 3.000 persone che stanno per perdere il posto di lavoro. Poi andremo avanti con altre cose, naturalmente vi ricordo i nostri contatti se volete interagire con noi fin da subito in tempo reale: 349-238-6666, anche su WhatsApp si può fare, trattino Radio 24, la pagina Facebook, l'account su Twitter è @ si può fare 24 e il mio @ Ale Maurizi. Vai! Allora, i giornali di oggi che si occupano molto della due casi di assoluzioni, quasi due casi gemelli, l'assoluzione di Marino e l'assoluzione di Cota, l'ex presidente della Piemonte e l'ex sindaco di Roma, assolti entrambi nei casi scontrini o acquisto di mutande colorate, quelle famose di Cota. Dunque, questa questione, e poi anche il premio Nobel per la pace assegnato in Colombia, con annesse discussione e anche qualche valutazione polemica, vedremo di che cosa si tratta. E poi naturalmente anche per esempio la giornata ieri, il Sole 24 Ore di borsa con il venerdì nero di Londra, crollo storico della sterlina, borse europee in calo, Wall Street delusa dai dati sul lavoro americano, dove c'è stata un rialzo in atteso della disoccupazione che ha raggiunto una soglia del 5%, e le cose sono andate peggio del previsto, così scrive il Sole 24 Ore, su cui pure torneremo più avanti per altri argomenti. Ma dicevamo, i titoli principali sono dedicati all'assoluzione. Caso scontrini, scrive il Corriere della Sera, politici assolti, Marino, il PD ora mi chieda scusa, Cota e le mutande verdi, attacchi ignobili, giustizia per l'ex sindaco, il fatto non sussiste, Violante ora basta con la subalternità alle toghe. Scrive invece Repubblica, assolto Marino, io, nel virgolettato c'è l'intervista, la leggeremo un passaggio, io pugnalato, un solo mandante, e il mandante è il PD di Renzi, naturalmente. La Stampa, Marino assolto, ora sfida Renzi, appunto il titolo più esplicito del quotidiano La Stampa, parla l'ex primo cittadino in campo per il no al referendum, tra l'altro, e il PD, manco a farlo apposta, si divide. Novità per niente nuova della politica italiana, il PD diviso, scrive Libero, giustizia senza mutande, prima si accanisce, poi assolve, Cota, ex presidente della regione Piemonte, giudicato innocente per gli slip verdi ma ormai è rovinato, Marino, ex sindaco di Roma, è incolpevole per le grandi mangiate, rovinato pure lui. Quelli di Mafia Capitale risultano brave persone, perché ci sono state anche in questo processo delle assoluzioni, dei non luoghi a procedere, insomma, oltre 100. Il banchiere, qua Libero sta facendo un elenco, il banchiere di BPM Ponsellini non è un truffatore, archiviato. Che senso ha stroncare la gente e poi accorgersi che non ha commesso reati? E questa è la domanda che si fanno tutti, naturalmente, perché insomma, le possibilità sono che fosse sbagliata l'accusa inizialmente, o che sia sbagliato il processo dopo, o che siano sbagliate le leggi, perché è difficile immaginare, pensiamo al caso di Marino, dimessosi anche perché lo ha voluto dimissionare il Partito Democratico, il suo partito, ma dimessosi per questo caso scontrini. Poi il PM chiede 3 anni, non 3 mesi, 3 anni, e il giudice archivia perché il fatto non sussiste. E quindi c'è da domandarsi che senso ha, come scrive il Libero, stroncare la gente e poi accorgersi che non ha commesso reati. Qualcosa da qualche parte non ha funzionato, probabilmente. Marino assolto, lacera il Partito Democratico, scrive il Messaggero. Andiamo con qualche altro titolo, su qualche altra notizia. Haiti, la furia dell'uragano, Matthew punta la Florida, scrive Repubblica. E c'è anche l'uragano Matthew, che ieri era atteso il suo impatto sugli Stati Uniti, sulla Florida. C'è stato un impatto attenuato, poche vittime, probabilmente anche per dei malori. L'uragano è stato degradato a grado 2 adesso su 5, quindi molto poco, molto meno pericoloso, molto innocuo, diciamo, rispetto ad altri. Ad Haiti invece ha fatto un disastro, quasi 1000 vittime, i giornali sono fermi alla conta, su Repubblica scrive oltre 800 morti nell'isola dei Caraibi, ma stamattina abbiamo sentito le notizie, siamo arrivati quasi a 1000 morti. E che dire, naturalmente se fosse la stessa cosa fosse successa in un paese sviluppato, negli Stati Uniti per esempio, queste morti avrebbero sicuramente ci avrebbero scioccato di più, avrebbero colpito di più l'immaginazione, sicuramente ci sarebbero stati speciali di tutti i mezzi di informazione. Ma siamo in un paese povero, poverissimo, già disastrato di suo, già quasi bombardato di suo, verrebbe da dire Haiti. Infatti la maledizione di Haiti, scrive Repubblica. 6 anni fa il terremoto, poi l'emergenza colera, ora l'isola caraibica è di nuovo in ginocchio. Nei villaggi rasi al suolo dalla furia della natura, i morti sono già più di 800, ma dicevamo sono in realtà quasi 1000, potrebbero essere infatti migliaia, scrive Repubblica. Intanto l'incubo è arrivato in Florida. E le morti che ci sono state naturalmente perché questo uragano che è arrivato con un impatto più forte di quello che poi è toccato alla Florida, però insomma ha impattato una realtà sociale, demografica, economica vicina allo zero come quella di Haiti, e quindi facile immaginare come sia venuto giù tutto, alberi, palazzi, abitazioni costruite di fortuna, bombardate, e quindi adesso ci sono decine di migliaia di persone sfollate, manca l'acqua, c'è un rischio epidemie di nuovo e l'Haiti precipita di nuovo nel baratro. Dicevamo della questione del premio Nobel per la pace assegnato al presidente colombiano Santos per la firma di un accordo di pace con i guerriglieri delle FARC dopo 50 anni di guerra e di guerriglia. Allora, cominciamo con un commento critico che è quello del Corriere della Sera di Pierluigi Battista, un altro Nobel ambiguo. Ma oggi che valore ha? Scrive Battista. E la questione è questa, andiamo a leggere. La prima domanda è questa: ha senso assegnare il premio Nobel per la pace a Juan Manuel Santos per un tentativo ancora non riuscito, quello di mettere formalmente fine a un conflitto cruento con la guerriglia FARC e che addirittura è stato appena bocciato in un referendum dal popolo colombiano? Interrogativo connesso: il Nobel deve avere un qualche rapporto con il rispetto del voto democratico o può ignorarlo del tutto? Seconda domanda: se si vuole riconoscere il ruolo di Santos, perché non esigere lo stesso trattamento per le FARC? E questa è un'obiezione ragionevole. Terza domanda: ma ha ancora un senso simbolicamente forte il premio Nobel per la pace dopo quello preventivo e assai imprudente dato ad Obama? Dopo quest'ultima scelta la domanda potrebbe pure avere un suo perché, e in effetti questo commento di Battista segnala che forse il premio Nobel per la pace potrebbe tornare a premiare anche storie più piccole, storie di personalità meno divisive sul piano più generale. Certo però che la questione che pone Battista, che pure è fondata, si potrebbe obiettare che c'entra la democrazia forse con la pace. Sono due cose diverse, anche se spesso si alleano. Hitler è stato democraticamente eletto, ha scatenato la Seconda Guerra Mondiale. Non mi sarei sentito di dargli il premio Nobel per la pace. Certamente qua si è premiato un tentativo di chiudere una pagina di Guerrilla, che è stato bocciato per pochi voti dai colombiani, probabilmente perché timorosi, paurosi, qualunque accordo di pace dopo una guerra, se fosse stato in passato fatto votare da un referendum, sarebbe probabilmente stato bocciato, perché dopo la guerra si è per un certo periodo di tempo, finché non si fa la pace, si è vendicativi e si resta in un clima di vendetta, di legge del taglione. Va bene, questo è però il commento di Battista. Un commento di segno opposto è quello invece di, sempre sul Nobel, di Roberto Saviano sulla Repubblica, che dice: il Nobel alla Colombia per battere l'ultima paura. Però è un commento più favorevole, ma è interessante perché dà comunque degli elementi di lettura. A proposito delle FARC, dice Saviano, hanno sempre gestito il traffico di coca in tutta la sua filiera, ma l'immagine che di loro nel mondo è a lungo passata era quella della guerriglia comunista, guerriglia pura, l'ultima grande guerriglia comunista marxista di matrice guevariana. La veste ideologica, quella stessa che è stata di Sendero Luminoso in Perù, ha generato un incredibile consenso, facendo passare la narco-guerriglia, narcotraffico, per guerriglia socialista che aveva come fine una rivoluzione in Colombia. Niente di più falso. Cioè, Saviano dice, questi non erano guerriglieri romantici che stavano lì a difendere il popolo, ma era gente che stava lì seduta sulla cocaina, sulla produzione e vendita di cocaina, e facevano i soldi col narcotraffico, sfruttando povertà, contraddizioni ed equivoci dentro la Colombia. Prosegue Saviano, le FARC sono riuscite a costruire questa sorta di progetto politico che per me ha sempre avuto il sapore di una impostura. E allora arriva al punto, bravo Santos, che ha percepito le difficoltà crescenti che stava affrontando la guerriglia in Colombia, perché queste difficoltà sono arrivate per la concorrenza che le FARC hanno trovato, scrive Saviano, nel mercato della droga. Si sono abbassati i prezzi, hanno dovuto abbassare il prezzo della propria merce, che non era più concorrenziale, non sono più riusciti a reggersi come stato autonomo, parallelo e clandestino, le FARC. E allora bravo di nuovo Santos, che ha deciso di intervenire in questo momento per mettere da parte le ferite del passato, iniziare il dialogo e sconfiggere in qualche modo le FARC. C'è la pausa per le informazioni sul traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, ritorniamo sulla rassegna stampa e abbandoniamo però l'argomento Nobel per la pace con appunto la lettura di due commenti, uno più critico, quello di Battista sul Corriere, che chiede se ha ancora senso assegnare Nobel per la pace, che in qualche modo sono divisivi o ambigui, come è stato per lui il caso di Santos, il cui accordo di pace è stato bocciato da un referendum in Colombia. Il commento invece di Saviano, che è entusiasta perché insomma, Santos ha capito le debolezze delle FARC e le ha sconfitte, ingabbiate in qualche modo. Torniamo invece alla questione della soluzione, per esempio, di Marino. Abbiamo detto a soluzione gemelle il caso di Cota e di Marino. C'è un'intervista a Marino su Repubblica. Io pugnalato un solo mandante, Renzi, sottinteso, ho sbagliato a dimettermi dopo quelle 26 coltellate. Il partito potrei tornare. Il momento più doloroso, gli domanda Sebastiano Messina, vedere il partito di cui sono stato fondatore, che si riunisce insieme agli eletti della lista di Alemanno, da un notaio, per destituire il sindaco democraticamente eletto, una delle pagine più cupe della democrazia. Dunque, la cicatrice col PD non si chiuderà più. Ma il PD, risponde Marino, è anche fatto di quelle persone che stasera manifestavano sotto casa mia, donne e uomini di sinistra che erano contenti, felici per me. Veltroni mi ha mandato un messaggio affettuoso. D'Alema mi ha detto: finalmente emerge la verità. Anche il capo della polizia Gabrielli ha tenuto a dirmi che finalmente giustizia è fatta. Forse non mi sarei dovuto dimettere, ma è vero che ho subito una enorme pressione mia e anche della mia famiglia, e quindi in quel momento non c'erano alternative. Così Marino. Passiamo a un altro argomento, a dire la verità, che è un argomento che ha a che fare con lo sport ed è la polemica sulla sponsorizzazione della maglia della nazionale di calcio con una società di scommesse. C'è l'intervista sul Corriere della Sera alla presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Tommasi, sponsor del gioco no dei calciatori, dice Tommasi. Non ci hanno nemmeno interpellati, eppure noi facciamo parte del Consiglio. È stata una scelta di Tavecchio, una scelta insensata. L'accordo vale per tutte le nazionali, anche le più giovani, dei più giovani, minorenni. L'azzardo è vietato ai minori, dice Tommasi, giustamente, inascoltato. E fa un caso incredibile. Donnarumma, il portiere del Milan, è già in nazionale, non ha ancora 18 anni. Secondo voi deve andare in conferenza stampa avendo alle spalle il marchio di una cosa che gli è giustamente vietata? È un messaggio devastante, dice Tommasi. Ti disarma vedere che al di là delle reazioni sui giornali non succede nulla, assolutamente nulla. Semmai se la prendono con Pellè. E la questione però qual è? È che ci sono di mezzo soldi, tanti soldi. I soldi giustificano tutto, prosegue Tommasi. Che poi, insomma, in questa intervista va avanti fino a spingersi a, in qualche modo, a prendersela anche col suo ex capitano Totti, che è sponsor di una nota casa di gioco d'azzardo. Non è l'azzardo delle scommesse, ma è un azzardo simile. Sicuramente potrebbe evitare, lui è Totti, ma lasciamo i casi personali, facciamo fatica a incidere sulla nazionale, però visto che facciamo parte del Consiglio federale abbiamo il dovere di incidere, il dovere, dice Tommasi. E questa è la questione della sponsorizzazione della maglia azzurra, degli azzurri. Non c'è il logo sulla maglia, ma insomma tant'è, voluta da Tavecchio e che sta suscitando la reazione, Tommasi dice, di tutti i giocatori della nazionale. Altra questione è questa qua sulla prima pagina della Stampa. Stiamo andando su cose un po' più leggere perché che riguardano tante persone. Foto notizia, un bambino steso sul tavolo della scuola con i compiti davanti. Troppi compiti, adesso diminuiranno. Questa è una vecchia polemica che ritorna, però la Stampa cita le parole del ministro dell'istruzione, quindi una fonte, diciamo così, abbastanza autorevole, che apre a questa questione ciclica, come volete, quanto volete, ma che, insomma, secondo lei con la riforma caleranno i compiti, perché lei dice: penso che i compiti non si possano cancellare per legge, che la libertà di insegnamento sia sacra, ma la polemica sui compiti è pure un po' stagionale, prosegue, comprensibile quando il carico supera certi limiti, così come sono comprensibili le perplessità di molti genitori, ma è proprio grazie alla buona scuola che sta per partire un cambiamento culturale nella scuola con modalità innovative e interattive di lavoro in classe e fuori dalla classe. Il carico di compiti va ovviamente dosato a seconda dell'età degli alunni, ma proprio con le nuove modalità previste dalla legge 107, sia i ragazzi che i docenti saranno maggiormente responsabilizzati. Insomma, una apertura a metà del ministro Giannini. Ancora dalla prima pagina dei Repubblica, una reportage sui call center in Albania, perché Almaviva sta chiudendo, lo diciamo prima in apertura, ne parleremo pure più avanti dopo il GR delle 8, si può fare, è un'azienda di call center in Italia che sta per lasciare a casa 3.000 persone, basta attraversare l'Adriatico e andare in Albania per vedere come qui si lavora. Il reportage è firmato da Marco Patucchi e parla di Tirana come la Las Vegas dei call center. Arriva molto spesso da qui la telefonata che è inesorabile all'ora di pranzo o mentre siamo impegnati in qualcos'altro, ci propone di cambiare fornitore di elettricità o di qualcos'altro. Ci sono aziende come per esempio la FiberICT di call center, che ha sede a Tirana e dintorni, la gestisce un imprenditore italiano che ti racconta la voglia di riscatto degli albanesi, un popolo composto soprattutto da giovani con tasso di scolarizzazione molto alto. Qui gli operatori sono quasi tutti laureati, sanno 2-3 lingue, guadagnano però poco, da un minimo di 250 euro a un massimo di 500 euro al mese. È uno stipendio in cui in Albania ti puoi fare una famiglia, una vita, e invece è la metà di quello che si guadagna in Italia, con cui fai la fame. Ecco spiegato il trucco dei call center. Ci fermiamo qua, c'è il giornale radio, poi ci ritroviamo dopo, non si può fare. Ciao, dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ciao Carlo, Milano-Monterosa oggi com'è? Non si capisce, ma direi freddo che non si sa se potrebbe venire la pioggia o forse il sole, ma perché è troppo presto. Abbiamo ancora il calduccio alle spalle che ci ha riscaldato fino adesso e non siamo pronti per queste gelate mattutine. Per niente. Io mi metto sotto un sacco di magliette e poi riesco solamente in felpa, perché sotto ho 8 magliette e quindi... Però è bel tempo, no? È bel tempo, credo anche un po' in tutta Italia, quindi va bene così. Allora, cari ascoltatori, questa te la voglio raccontare perché in rassegna stampa ho letto l'intervista a Damiano Tommasi, presidente dell'associazione calciatori, che ha sollevato la polemica sullo sponsor della nazionale di calcio da parte di una nota casa di gioco d'azzardo. E i calciatori non sono stati consultati, lui è infuriato. Te lo volevo dire che c'era questa intervista perché noi insomma siamo sempre sul gioco d'azzardo, dici? Sì, rompiamo le scatole. Però, però che i giocatori chiedono di essere anche interpellati loro, nel senso... lo sponsor della nazionale, loro vengono chiamati a fare delle campagne contro, certo, l'azzardo, per parlare con i ragazzi. Addirittura Tommasi dice: noi abbiamo il portiere della nazionale che è un minorenne, il gioco è vietato ai minori, questo si troverebbe a fare la conferenza stampa con dietro lo sponsor di una cosa che lui non può fare, che è vietata. E siamo alla follia. Pensavo che stesse chiedendo giustamente di essere interpellati come giocatore per avere la loro fetta, diciamo. Di solito non è che nei confronti degli sponsor. Forse ho letto male, ho visto io delle barricate etiche, ma comunque è apprezzabile. Il problema è sempre il solito: che non è che si possono fare più di tanto campagne contro il gioco d'azzardo, quando sappiamo tutti che il gioco d'azzardo finanzia pezzi anche di cose statali, certo che sì. 8 miliardi circa di euro l'anno di introiti fiscali. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo. Tra poco parleremo di una crisi aziendale italiana, è un non si può fare, cercheremo di capire se invece si riesce ancora a salvare il salvabile. O se si può fare diversamente. Parliamo di call center e anzi questa mattina vi chiediamo così di venirci in soccorso, perché questa cosa che si ingaggiano direttamente dei call center che hanno sede all'estero, è legittima, però a volte crea delle situazioni assurde. Già il call center in sé è questo, secondo me, è l'aggravante. Infatti quello che vi chiediamo è il vostro rapporto con i call center, perché è sempre stato difficile, ma in più adesso c'è anche il fatto che a volte uno si innervosisce e si ritrova a parlare con qualcuno che gli sembrava che parlasse benissimo in italiano perché legge benissimo le cose precise che ti deve dire, ma appena gli dici fai una domanda fuori pista, mi scusi, mi può chiamare fra 8 minuti, e diventa un problema. E quindi quello che vi stiamo chiedendo per il gioco del sabato è le vostre esperienze più strane, più particolari con i call center. A me, tra tutto, perché io parlo spessissimo con i call center, non so, credo che abbiano tutti il mio numero, giorno, esatto. E l'altro ieri, non so se è una cosa che accade già da tempo, penso che sia una novità, mi è arrivata una telefonata, ho risposto, ho iniziato a dire non mi interessa, ma dall'altra parte c'era una voce registrata, ma proprio completamente registrata, che diceva: buongiorno Carlo, noi le vorremmo... Sembrava che stesse parlando con me. Stavi parlando in realtà con una voce registrata. Esatto, e quindi ho attaccato malamente. Me la sono potuta prendere solamente col mio telefonino. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Vai. Siamo sei noi su questa terra. Paga sempre chi non ha la fortuna. Mentre i padroni dichiarano guerra, i generali danno ordini ai figli dei servi. Noi su questa terra paga paga sempre chi non ha mangiato, perché talvolta la fortuna è cieca ed il conto è sempre salato. Ma finché serve acclameranno i potenti, finché i padroni saranno dei santi, finché i cervelli saranno... Allora, parliamo della crisi della Almaviva. E questa azienda che ha varie sedi in tutta Italia, Almaviva Contact, che si occupa di questo, di gestire dei call center per tutta una serie di committenti, e ha annunciato oltre 2500 tagli di posti di lavoro tra Roma, Napoli e forse anche a Palermo. Ne parliamo con uno di loro, uno di questi lavoratori, è Jean-Paul Buana, che lavora alla sede romana di Almaviva, rappresentante RSU Fistel CISL. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, una voce, senti che voce che ha da call center proprio, eh? Una voce importante. Jean-Paul. Ha l'abitudine di parlare per telefono. Esatto, poi sì, è una deformazione anche professionale. Beh, diciamo, è anche una bellissima voce radiofonica, sì, ci si può dire. Infatti ho detto da call center, ma avrei dovuto dire radiofonica. Abbiamo sentito una bella voce. Allora, quanti posti di lavoro sono stati annunciati in esubero? Quante persone rischiano di perdere il posto di lavoro in questo momento? Poi ci spieghi anche per quali cause la Almaviva ha giustificato questi tagli di posti di lavoro, Jean-Paul. Allora, praticamente su Roma, cioè in totale, cioè la unità operativa cioè è composta di circa 1700, cioè poco più di 1700 persone. Uh-huh. E l'azienda invece ha annunciato le procedure di licenziamento per 1666 persone. Cioè, questo per quanto riguarda Roma. Per quanto riguarda solo Roma, questo solo qua, Roma. Perché a Napoli pure chiude, ha annunciato di chiudere pure il centro di Napoli. E sono 800, credo, 45 persone, così esatto, scrivono. Esatto. Invece a Palermo parliamo forse di 2500 persone. 2500 persone. Su un esatto. Totale di quanti dipendenti? Lo sai? In tutta Italia siamo circa 8000 persone. Uh-huh. Cioè, loro vogliono chiudere soltanto il centro di Roma e quello di Napoli. Beh, quindi è un quarto comunque dei dipendenti, anche un terzo, sì, quasi praticamente anche un terzo, cioè, sì. Quasi, cioè, diciamo poco meno di un quarto, diciamo un terzo, sì. Allora, sono ore nelle quali ci sono incontri, si discute le sedi, la regione, il Ministero dello Sviluppo, come sempre si cerca di trovare, dici. Esatto, no, cioè praticamente tutta una parte, diciamo, cioè a maggio abbiamo firmato un accordo che avremmo dovuto portare fino a novembre del prossimo anno. La situazione del settore, praticamente c'è una crisi nel settore che denunciamo da tanto tempo, no? Perché il problema è, cioè il problema delle delocalizzazioni, la 24 bis, cioè la legge 24 bis che non viene rispettata, il problema, diciamo, cioè del dumping e tutto quanto, e c'è tutto questo qua, cioè il sistema, il fatto che cioè le aziende delocalizzano, sì. No, le leggi non sono rispettate. Per esempio, scusa Jean-Paul, nel caso di Almaviva si tratta di un'azienda che delocalizza o di un'azienda che semplicemente subisce la concorrenza di altre aziende che hanno sede all'estero e che possono offrire prezzi più concorrenziali nelle gare d'appalto? E allora, partiamo che, cioè, ad essere sinceri, cioè l'azienda nello statuto suo è, cioè, ha deciso di, cioè, come, cioè, statuto di non delocalizzare. Perché infatti questo. Noi sappiamo che quello che dice Almaviva, almeno nei comunicati ufficiali, è questo, cioè che loro anzi se la prendono con le aste al ribasso che vengono perfetto. Fatte dai committenti, mettiamo, che ne so, una grande azienda di telefonia o una grande azienda di fornitura elettrica o di fornitura del gas che ha bisogno di un call center, fa un'asta, la fa anche sul prezzo e a vincere sempre di più sono aziende che stanno in Albania o stanno in India, stanno altrove, perché pagano degli stipendi. Oddio, o anche nel sud Italia. O anche nel sud Italia. Esatto, perfetto. Beh, però c'è, cioè, questo discorso qua, se lì parliamo, cioè, praticamente della... della 24 bis che non viene rispettata, perché comunque le leggi ci sono. Sì, per quanto riguarda l'Italia sì, per quanto riguarda l'estero pagare un lavoratore, un consulente in Albania 300 euro al mese sta nelle leggi di quel paese e quindi è tutto regolare, però naturalmente questo va a discapito del lavoro italiano. A discapito del lavoro in Italia, sì, lavoro perché in Italia. Esatto. Cioè, però tornando dal Maviva, c'è il fatto che comunque loro non delocalizzano, cioè il lavoro lo fanno in Italia, cioè ci sono delle gare appunto al massimo ribasso che comunque le fanno, non è che le fanno per conto loro, le fanno comunque sotto le leggi vigenti. E quindi queste penalizzano le aziende come Almaviva, che comunque hanno un costo di lavoro molto più alto rispetto a queste aziende qua, e di conseguenza non è più sostenibile per una società come Almaviva. Questo dal punto di vista, diciamo, delle leggi vigenti, certo, che comunque non aiutano queste aziende. Tra l'altro ti dico che ci sono, arrivano dei messaggi anche critici nei confronti dei call center e anche italiani, perché c'è chi scrive: il call center albanese risolve i problemi, quello italiano ti fa esasperare per la inefficiente spocchia del personale. Ora, sono casi personali, spesso, però arriva, oppure arriva, cosa arriva ancora? Alcuni anni fa un operatore arrabbiato perché rifiutava di ascoltare le sue proposte, mi ha telefonato, no, ne avevo letto un altro, insomma, che sempre diceva che perché preferisce ascoltare un accento straniero, questo ascoltatore, piuttosto che un accento romano, a dire sempre che all'estero lo fanno meglio il call center. Cosa ti senti di rispondere, Jean-Paul? La vostra professionalità? Ma noi comunque quello che dicevamo prima non era una questione di essere stranieri in quanto stranieri, era nel fatto di riuscire conoscere o non conoscere la lingua, che poi uno sia straniero, sì, non credo che cambia assolutamente riuscire niente, non è un problema. Beh, questo lo diciamo noi, l'abbiamo detto in apertura, spesso si ha l'esperienza di parlare con un call center che si capisce che sta leggendo delle cose perché non è di lingua italiana, e l'esperienza è spesso frustrante. Questo lo dico agli ascoltatori, non a te, a cui invece ti chiedo, Jean-Paul, la vostra professionalità, come si svolge il vostro lavoro? Allora, no, per quanto riguarda la professionalità, cioè noi non possiamo dire che non abbiamo concorrenza, cioè noi che lavoriamo in Almaviva, perché comunque ricordiamo la storia che, cioè, l'Almaviva parte, cioè la vecchia Tesia, che è, cioè, il più grande call center, credo, d'Europa, e la professionalità veramente acquisita, perché sono anni, cioè c'è gente lì da noi che ha più di, cioè, quasi 20 anni di esperienza. E poi non tanto, cioè, per quanto riguarda, cioè, soltanto una piccola cosa, per quanto riguarda il fatto di lavorare all'estero, cioè, oddio, pure lì ci sarebbero anche delle persone che, cioè, professionali e così via, però il discorso non è quello, il discorso è che sono i dati sensibili che vengono, cioè, comunque messi in paesi dove comunque non sono rispettati le leggi sulla privacy. Oppure... questa è un'altra questione che in effetti ci sta. Jean-Paul, però voglio tornare anche per far capire agli ascoltatori come funziona il vostro lavoro. Per esempio, Almaviva dice anche che i sindacati non hanno accettato accordi che in qualche modo rendessero ancora più flessibile il vostro lavoro per rendere il call center in Italia competitivo con quello straniero. Questo è il sottinteso. Quante ore dura un turno di call center ad Almaviva? E mediamente quant'è lo stipendio, se ce lo puoi dire, all'ingresso, un lavoratore che entra in Almaviva? Esatto, cioè noi praticamente, cioè, abbiamo dei contratti che partono dalle 4 ore, cioè il part time al 50% fino ai full time. Mm-hmm. E cioè, quindi chi ha 4 ore lavora 4 ore e così via. 4 ore al giorno, e quanto guadagna? Allora, coloro che hanno i quadri di part time a 4 ore sono circa sui 650 euro mensili. Netti, stiamo parlando. A volte anche un po' di meno, considerando che noi siamo in solidarietà di tipo difensivo, sì, cioè la solidarietà massima, che è circa il 45% di solidarietà. E invece uno che fa un lavoro pieno, un orario pieno, 8 ore al giorno? Un lavoro pieno, cioè, diciamo, la paga base circa sui 1.100 euro. 1.100 euro, sì. I famosi 1.000 euro al mese, poco di, esatto, più. Esatto, però il discorso, cioè, che il sindacato abbia rotto l'accordo, non abbia rispettato l'accordo, come sostiene Almaviva, non è del tutto vero, perché noi questo accordo l'abbiamo firmato a maggio, cioè dove, cioè, certo, nell'accordo c'è inserito che avremmo valutato l'articolo 4, no, della legge 300, quello sul controllo individuale, però allo stesso tempo, sullo stesso tavolo, al Ministero, cioè al Ministero, al MIS, al Ministero dello Sviluppo Economico, e abbiamo anche sostenuto, quindi, davanti al Vice Ministro, la Teresa Bellanova, come che quel problema l'avremmo rimandato sull'Astel, sul tavolo dell'Astel, al contratto nazionale. Dove vabbè, comunque... ci sono, adesso non, Jean-Paul, non possiamo addentrarci troppo all'interno. Io ho citato questa questione dell'azienda, detta all'azienda, perché avendo parlato con te, che sei un rappresentante dei lavoratori, era giusto riportare anche alcune delle affermazioni dell'azienda per avere un minimo di equilibrio nell'informazione. Noi ti facciamo l'in bocca al lupo personalmente a te e a tutti i tuoi colleghi per questa avvertenza. Speriamo che si chiuda positivamente, che non si perdano posti di lavoro e che il lavoro dei call center sia sempre più efficace, e quindi anche per quanto riguarda l'esperienza nostra di utenti. Intanto grazie Jean-Paul Buana e in bocca al lupo. Grazie. Insomma, la questione è complicata, avete sentito, però insomma noi oggi vi chiediamo anche di raccontarci le vostre esperienze, perché al di là di quello che scrivono alcuni ascoltatori stizziti dicendo meglio un accento albanese che uno romano, non si sa bene perché, non è questione di accenti. Comunque noi non ne facevamo una questione di accenti, no, che siamo abbastanza disinteressati agli accenti, non è diciamola quello. Tutta, già il call center che ti chiama per proporti le cose è fastidioso di per sé, se poi quando tu hai bisogno di risolvere una cosa anziché risolverla si crea un cortocircuito, una telefonata di un'ora, esatto, la quale riesci a farti capire, ma soprattutto è quello che molte volte il call center lì che cerca di dirti delle cose, tu vuoi liberartene, se parla una lingua per cui tu non riesci a liberartene è sicuramente una situazione peggiorativa, è questo che sto dicendo. E quindi noi vi chiediamo questo, ascoltatori, di chiamarci per raccontarci le vostre esperienze assurde con il call center. Io per esempio mi è capitato recentemente, ma quasi una volta al giorno arriva una di queste telefonate, o sul numero fisso, a volte anche sul cellulare, perché ormai il nostro cellulare ce l'hanno tutti, tranne quelli che ce lo dovrebbero avere, cioè qualcuno ti chiama per farti una bella proposta di lavoro. No, quello no. Ti chiamano quelli che ti vogliono proporre il contratto di elettricità e ti rendi conto che loro leggono e a seconda della risposta che tu dai hanno un altro pezzo da leggere, è un canovaccio, e quindi qualunque cosa tu dica loro hanno la risposta pronta, solo che questo diventa un dialogo dell'assurdo. Devi dire cose strane tipo 42, così all'improvviso, e lì gli spiazzi. 800 24 00 24, tra poco. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block, avanti anni luce. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Una buona giornata da Alex Guarini e gli ascoltatori di Radio 24. Sarà un sabato caratterizzato da maggiore nuvolosità sulle nostre regioni di Nord-Est, Emilia-Romagna e Toscana, con il rischio di qualche debole pioggia. Questi fenomeni poi nel pomeriggio si intensificheranno e si estenderanno anche a Marche, Umbria e Lazio, con rischio di temporali, acquazzoni che poi nella notte si spingeranno fin verso la Campania. Andrà decisamente meglio invece sul resto d'Italia, con spazio per ampie schiarite, alternate innocue nuvolamenti, un po' più compatti sui versanti occidentali della Sardegna, con rischio di deboli piogge, più sole altrove con temperature stazionarie e massime sempre prossime ai 18-20 gradi. Con questo è tutto, per aggiornamenti in tempo reale anche sulla vostra località di interesse scaricate l'app di 3B Meteo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buon sabato. Allora, SMS al 3422386666, quando mi risponde un call center straniero riattacco e cambio prodotto. Questo è uno. Poi io pagherei, dice un altro ascoltatore, un servizio un po' di più se l'azienda fosse call center free, cioè proprio addirittura senza call center. Sì, in realtà tra l'altro vanno separati due tipi di call center, perché da un lato sono i call center quelli che uno chiama quando ha bisogno d'aiuto e quelli sono abbastanza indispensabili, dall'altro sono i call center che ti chiamano per farti loro delle offerte. Infatti, anche di persone, anche non tuoi, non dei quali tu sei già cliente, qualcuno infatti di nuovo. Scrive Mirko da Biella: ho fatto saggio uso del consenso sulla privacy, non ricevo telefonate, ma per mia madre è un problema perché si lascia convincere, poi io devo disdire tutto. Questo però, sì che è un problema. Però è interessante capire cosa vuol dire un uso saggio del consenso sulla privacy, perché in realtà i call center ti possono chiamare, non è, almeno da quello che... No, e lui dice che quando tu firmi dei contratti poi ci sono sempre delle... devi stare attento a non dare l'accesso ai tuoi dati ad altri operatori quando è possibile, perché lo dai a quel punto poi se ripassano nel... anche se poi il sospetto che si ripassino comunque c'è. Caterina da Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ma io volevo dire che ho avuto un'esperienza, più di una, con i call center, sì. Più che call center, servizio clienti di aziende per cui tu hai un abbonamento, tipo Fastweb, sì. E io non chiamo più, anche se non funziona la linea, non chiamo. Perché è inutile? Perché è inutile, perché ci passi la giornata, è una giornata di lavoro dove vieni rimbalzato da una povera ragazza di Tirana. Ma come fai a risolvere il tuo problema, allora, se hai un problema? E non... Io sono 6 mesi che uso un telefono solo. Invece di altri 4, perché vabbè, questo in è che un senso problema. Un telefono solo? Ma parli perché, di un'azienda? Perché ho cambiato operatore, sì. E non mi hanno spiegato ovviamente che cambiando operatore con Fastweb avrebbero dovuto uscire il tecnico, avrebbe dovuto uscire il tecnico per riattivare tutti i sì. telefoni dopo la prima. Però non ti hanno uscita. Detto dove andava quando usciva, cioè usciva, però non è che venisse a casa tua. Questo. No, è venuto a casa mia uno, sì. Peraltro ovviamente tunisino. È venuto a casa mia e non mi ha detto che avrebbe dovuto sistemare anche le prese telefoniche singole. Dopodiché non funzionavano per settimane, non funzionavano. Prima di riuscire a capire questa cosa, ho impiegato 4 giorni di telefonate dove mi rimbalzavano da pinco a pallo. E io ho pensato... In che senso da pinco pallo? Cioè parlavi con il famoso call center straniero? Parlavo con il commerciale, che diceva che lui era il commerciale, però ti doveva rimbalzare al tecnico che ti rispondeva invece che dall'Albania, dalla Tunisia o da qualunque altro posto, e avevi la chiarissima sensazione che loro sapessero le 4 cose che ti dovevano dire a memoria. Sì, e ma non che avevano... fossero del tutto inutili a risolvere quello che era il tuo completamente problema. Completamente inutili, esatto. Certo. Questa è la sensazione di cui parlavamo stamattina, quindi Caterina ti sei inserita perfettamente in questo filone, e quindi... Beh, cioè male, nel senso, però questa è la storia. La mia riflessione sì. era anche ulteriore, nel senso che sì. nell'esasperazione io ho pensato, ma non sarebbe possibile chiedere a un'azienda che lavora in Italia di garantire un servizio clienti dall'Italia? Chiederglielo, non dico forse per legge è impossibile, ma che ci sia veramente una richiesta forte in questo senso. Beh, no, è impossibile perché adesso non c'è un regolamento, una legge di questo tipo, però la tua richiesta, insieme a quella di molti altri, potrebbe anche avere un senso da questo punto di vista. Anzi, noi ti ringraziamo per aver gettato questo messaggio nella bottiglia. Soprattutto per capire poi se il problema sta lì, perché molte volte, dalla storia che ci è stata raccontata, in realtà ci sono anche molte aziende che hanno piacere a dilungare una pratica. Non è il fatto che chi ti risponde è tunisino o albanese, nel senso che lui non ha nessun potere, è semplicemente che forse la tecnica è quella di procrastinare. La tecnica dilatoria, che però col call center con cui non ti capisci viene meglio. È molto meglio. Dino da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, Dino. Niente, io volevo dire che innanzitutto io sono un operatore di call center per una compagnia telefonica. Sì? Sì. E le cifre di 650-1000 euro io non le ho mai sentite. Sono circa 3 anni che lavoro tra vari call center, non ho mai guadagnato quei soldi. La pago di più o di meno, scusa? Ma molto di meno. La paga oraria va intorno ai 2 euro l'ora, almeno per il periodo di formazione. Poi... Allora, aspetta Dino, tu facci un esempio, magari non sì. su di te, ma sul tuo collega, o il neo assunto nell'azienda dove lavori tu, e fa il famoso part time di cui ci parlava sì, Jean Paul. Quattro ore. Quanto guadagna? 2 euro all'ora. Attualmente io sto guadagnando 2 euro all'ora. Ma facci un conto mensile, perché sennò ci mettiamo troppo a fare il calcolo. Faccia lei il conto, sono all'incirca 20 giorni lavorativi, per 4 ore sono 80 ore, sono all'incirca... 160 euro. 60 euro, poi ci sono ovviamente le attivazioni, se riesci a fare le attivazioni te le pagano a parte. I premi, perché nel suo caso diciamo, è un call center che ma se non può anche attivare dei servizi. Ma se non riesci a raggiungere un minimo di contratto, rimani sotto i 200 euro. Cioè un part time sotto i 200 euro. Ma è la regola, anzi io mi sono meravigliato quando ho sentito il signore dell'Almaviva che parlava sì. di... Però parlava credo dei essendo un sindacalista di Almaviva, diciamo, credo che parlasse dei contratti reali oppure in realtà forse dei più alti che ci sono, e invece lei comunque... ci sta dicendo che sono molto più bassi i veri contratti. Io non lo metto in dubbio, fatto sta che insomma io almeno in quest'ultimo anno sì. Dino, e per un lavoro invece a tempo pieno, sempre lo stipendio quant'è nel tuo caso? 8 ore al giorno, call center. Allora, il mio call center attualmente sì. paga 2 euro all'ora. Se riesci a fare un tot di contratti, praticamente entro un mese, massimo 2, sì. Perché al secondo mese non fai contratti, vai a casa praticamente. tutti passano, almeno l'ultimo che ho lasciato pagava 4,80 euro all'ora. Sì. Ma ce lo, dici massimo, quanto hai guadagnato l'ultimo mese, diccelo direttamente, così facciamo prima. L'ultimo mese ancora non ho riscosso, ma dovrebbero essere intorno ai 250 perché ho chiuso alcuni contratti. Ma tu hai un part time? Sì, sì, 4 ore al giorno. Va bene, grazie Dino, ciao, buona grazie. Giornata. 800 24 00 24, questa... insomma, è una realtà sicuramente che avrà molte sfaccettature. Questa è una, quella di Almaviva era un'altra. No, è molto interessante vedere che in realtà forse i contratti sono addirittura un terzo o un quarto di quelli di Almaviva in altri call center. Dove vai a premio, sì, dove ci sono dei contratti da attivare, probabilmente lo stipendio cambia in base a questa regola. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un secondo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa Beautiful Place di Good Charlotte, l'Italia è piena di beautiful place, di posti meravigliosi, tanto che adesso esiste anche un registro che recensisce la nostra terra, i paesaggi rurali dove sopravvivono pratiche agricole tradizionali. Un registro, una struttura, l'ennesima struttura burocratica? No, speriamo di no. L'Istituto del Ministero delle Politiche Agricole, noi ci crediamo e crediamo nella valorizzazione di questi paesaggi anche attraverso questa struttura che ieri ha presentato una nuova iniziativa per valorizzare le terre italiane. Mauro Agnoletti è il coordinatore scientifico del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Quale iniziativa avete presentato ieri? Posso anticipare, da quel che abbiamo letto sui giornali, che si tratta di una specie di marchio identificativo del paesaggio rurale italiano, è così? Sì, in pratica... Questo registro, questa lista nazionale vede già circa 100 paesaggi che hanno chiesto di essere inseriti e naturalmente questi luoghi poi meritano qualche tipo di valorizzazione. Fra queste iniziative il marchio è un marchio di certificazione che si chiama paesaggio storico, perché questi sono paesaggi che hanno mantenuto caratteri storici, è uno di quegli elementi che pensiamo possa contribuire a far conoscere ai consumatori non solamente dei prodotti tipici associati ai paesaggi, ma anche a tutti coloro interessati a visitare questi luoghi e quindi a tutto il comparto turistico, che queste sono aree dove gli agricoltori, e quindi hanno mantenuto a prezzo di enormi sacrifici, quelle caratteristiche che rendono questi paesaggi unici. Ci fa qualche esempio per capirci? Certamente, potremmo cominciare ricordando per esempio i terrazzamenti con pietra secco delle Cinque Terre, dove la coltivazione della vite viene fatta col sistema della pergola bassa, che è un sistema molto particolare che si usa in quelle zone, oppure ugualmente per il settore vitivinicolo dovremmo pensare alle colline del Soave, dove si usa invece la pergola alla veronese, oppure invece nel settore che riguarda per esempio la pastorizia e quindi l'agricoltura, la zona dei formaggi della Raschea, dove abbiamo dei pascoli arborati, quindi sono forme particolari a livello anche ambientale, in cui la piantagione di alberi all'interno di zone pascolive dà veramente un connotato molto particolare al nostro paesaggio. Questo è un qualcosa che esiste dalla Sicilia alle Alpi, certo. Perché l'Italia è ricchissima di queste diversità, poco conosciute. Noi ci crediamo molto, sicuramente, come Radio 24, come si può fare sul paesaggio, sulla la tutela, ma anche la valorizzazione. Pensiamo a cosa potrebbe essere anche un piano di recupero del territorio, al rischio idrogeologico, al rischio sismico, per avere sempre di più paesaggi come quello che sta descrivendo lei. Ma siamo davvero vicini a valorizzare seriamente questi territori agnoletti, oppure spesso si spendono belle parole, poi però... Dunque, intanto siamo sicuramente arrivati al punto in cui ci sono atti, anche a livello politico, che riconoscono questa necessità, quindi non siamo a livello di proposizione. Una lista nasce come questa nasce perché è associata a un decreto ministeriale che prevede anche poi di poter canalizzare delle risorse verso questi territori e quindi poterli sostenere con le politiche agricole. Quindi ecco, siamo sicuramente arrivati a un punto di svolta, nel senso non se ne parla più del paesaggio solamente, questo valore aggiunto non riproducibile della concorrenza, che è un qualcosa che ormai è conosciuta come frase. Siamo arrivati al punto di mettere in atto delle azioni concrete attraverso degli strumenti anche normativi che consentono di fare qualcosa di pratico, però ricordiamoci che questi sono luoghi che esistono, quindi non siamo su delle intenzioni legate a cosa potremmo fare, si tratta di sostenere quello che c'è già, di farlo conoscere. Quindi non si tratta di inventare nuovi luoghi, ma di valorizzare luoghi che già esistono, in questo senso. Esatto, esatto, soprattutto quei tanti luoghi poco conosciuti e situati in aree marginali che hanno assolutamente bisogno di questo per uscire da questa marginalità anche economica. Certo. E che questo marchio in qualche modo diventi riconoscibile, perché il marchio è come sempre un bel progetto, ma diventa interessante semplicemente nel momento che uno va a cercare i prodotti se hanno quel marchio e li rifiuta se quel marchio non ce l'hanno. Esatto, quindi in questa fase magari ci sarà un lavoro anche di promozione per far conoscere agli italiani, ma anche a, non solo agli italiani, anche agli stranieri, che c'è questo marchio, il valore di questo marchio. Mi raccomando, molto lavoriamoci giusto sulla comunicazione, perché se rimane sconosciuto purtroppo non serve a niente. Agnoletti, noi abbiamo esaurito il tempo, grazie, ci torneremo su perché l'argomento ci interessa davvero. E che dire, ci fermiamo, c'è il giornale radio, a dopo. Grazie. Ciao. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24, Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sushi, sushi, you get the raw fish and rice, baby, serve it up to me now. Sushi, sushi, it tastes so nice and it's healthy too. Sushi, how come it's so delicious? They have to be precise with the slicing of the fishes. Ooh, convey your belt, my favorite item. If anybody takes it, then I'm gonna have to fight them. Sushi, it's mainly raw fish and rice. You can make it yourself, but it don't taste as nice as it does when you go to a place that's Japanese, where they slice it and roll it and serve it with ease. Ah, sushi! Quanto ti piace il sushi, Carlo? Moltissimo, moltissimo. A me per niente, moltissimo. Cioè no, per niente, non l'ho quasi mai assaggiato, forse sono un po' scettico. Soprattutto sashimi, che è proprio solo pesce crudo, quindi è esattamente quello di cui stiamo andando a parlare. Attenzione però, perché c'è un boom vero e proprio di malori, anche di ricoveri, lo segnalano proprio gli ospedali, di gente che ha mangiato pesce crudo, molto probabilmente, ed è affetta da sindrome dello sgombroide, quindi fate attenzione, il tema dell'alimentazione è sempre un tema che ci interessa molto. È con noi Deborah Razio, buongiorno, grazie per essere buongiorno con noi. Buongiorno. Lei è una dottoressa esperta di alimentazione, la vedete spesso, adesso la sentirete anche, ma la vedete spesso in TV, spesso al Di Martedì con Floris, e oggi è qua con noi. La prima domanda che le voglio fare è cosa si rischia mangiando un sushi fatto male in generale? Poi parliamo anche di questa sindrome in particolare. Allora, il pesce, come tutte le carni, necessita di una buona conservazione, perché se noi non rispettiamo bene la catena del freddo, se ci sono dei problemi nella produzione, la distribuzione e l'erogazione del pesce, si può formare nelle sue carni una sostanza che è l'istamina, che è un mediatore di reazioni allergiche. Allora, la cosa importante è che questo non si verifica soltanto nel pesce crudo, perché l'istamina, se anche andiamo a cuocere il pesce, non verrà degradata, ed è una sostanza che ci dà dei problemi innanzitutto a livello gastrointestinale, perché la ingeriamo come cibo, e quindi si possono avere crampi addominali, dolori, vomito, diarrea, e poi se passa in circolo abbiamo reazioni anche più generali, come a livello cutaneo, eritema o rash, mal di testa, e in casi un pochino più gravi, in chi magari è predisposto ad avere reazioni allergiche ed asma, si può avere anche magari un edema della glottide. Però il problema del pesce crudo è che magari viene conservato male, viene mantenuto a temperatura troppo elevata, e quindi si genera questa sostanza che non è un batterio, un virus, è proprio qualcosa che deriva dall'istidina, che è un amminoacido presente nelle carni, che viene poi trasformato in istamina da batteri che sono normalmente presenti sulla superficie del pesce, ma che a noi non darebbero nessun fastidio. Quindi questo è importante, non è solo pesce crudo, è pesce, cioè il pesce conservato male, poi che si mangi crudo, peggio ancora, peggio mi sento, ma anche se si mangia cucinato, a quel punto il rischio c'è. Per esempio, se noi prendiamo una scatoletta di tonno, l'apriamo, ne consumiamo metà e la teniamo in frigorifero per 3 giorni, non mangiamo quel tonno perché rischiamo, anche se era cotto in origine, comunque di avere una sindrome sgombroide per la presenza di istamina, per una cattiva conservazione. Ah, ma quindi è tutt'altra cosa. Questa del tonno in scatola nel frigorifero, tra l'altro, mi interessa allarme molto. Rosso, quindi... anche esatto. Per me, perché io ci mangio una volta a settimana almeno. Anche perché quelle scatole grosse... subito, no? Cioè, subito. Non conserviamolo per troppo tempo. Quindi diciamo che la sindrome sgombroide di cui stiamo parlando, che in realtà all'interno sushi, mal di sushi, esatto, che all'interno dei pronto soccorsi viene in realtà chiamato mal di sushi, in realtà è una scorciatoia non corretta, anzi quasi che potrebbero i ristoratori di sushi dire che non va bene dire che è un mal di sushi, è semplicemente chi mal conserva il pesce, esatto, non è solamente un problema degli stranieri. No, esattamente, anzi in verità il problema del pesce crudo, spesso il nostro pesce crudo è più collegato alla presenza di un vermetto che si chiama Anisakis, che troviamo molto spesso nelle alici. Allora lì sì il problema è del pesce crudo, perché l'Anisakis, se andiamo a cuocere le alici, lo disattiviamo immediatamente, mentre invece mantenuto crudo è un pesce che può infestare le nostre stesse carni. Ecco, quindi distinguiamo tra il cosiddetto mal di sushi, che in realtà è sindrome dello sgombroide che deriva dal pesce mal conservato, poi c'è una questione che riguarda il pesce crudo, perché insomma di leggende sul sushi io non voglio dire, perché io non ci vado, a me non quelli che non ci vanno ne sentono di più. Bravo, esatto, quindi forse io ho un conflitto di interessi in negativo, però ci sono tante leggende, no, sul fatto del pesce crudo, sul sushi. Il rischio in questo caso è questo Anisakis, che ripetiamolo, si tratta di un... No, l'Anisakis è per... No, per la sindrome sgombroide è l'istamina, no? Sì. L'Anisakis, sì, è più, scusate, allora sì, come avete detto voi, è più per il pesce crudo. Però per esempio invece nei molluschi bivalvi, no? Sì. Si dice non mangiate le cozze crude, sono esatto, pericolose, o le ostriche. Quello è un problema ancora diverso, perché questi sono diciamo molluschi che non hanno lo stomaco, mentre l'Anisakis ha bisogno di annidarsi dallo stomaco, va poi nelle carni. E quindi questi sono invece batteri e virus. Anche qui, se li avessimo cucinati, non avremmo avuto la problematica. Quindi diciamo sono 3 problematiche diverse del pesce, ecco. Tutte in qualche modo che si relazionano alla freschezza, perché se io anche pesco un pesce, lo mangio immediatamente, lo evitero prima, l'Anisakis non farebbe comunque in tempo a migrare. Invece se lo lascio, anche se l'ho ben eviscerato, ma magari c'era uno di questi vermetti che poteva... È rimasto in giro, e allora fa il suo mestiere, quello poi si sviluppa in maniera più importante, e quindi abbiamo la sintomatologia. Adesso parleremo con lei anche di un altro argomento dopo la informazione sul traffico, che è il boom di acquisti biologici, di prodotti di agricoltura biologici da parte dei consumatori italiani, e la domanda che ci facciamo naturalmente è se questo ci garantisce una migliore salute anche per quanto riguarda l'alimentazione. O solamente una maggior spesa. Però intanto, per chiudere l'argomento pesce, sushi, la domanda classica che le sarà stata fatta 1000 volte, volte, però gliela ripetiamo. Come si sceglie un ristorante? Cioè, ci sono delle domande che bisogna fare entrando in un ristorante dove si mangia anche il pesce crudo o comunque il pesce. Domande da fare per avere una risposta, essere sicuri che non si rischia. Allora, ovviamente la presenza di un abbattitore, che è uno strumento con cui noi mandiamo la temperatura delle carni giù immediatamente a anche meno 30, questo garantisce l'uccisione dell'anisakis. Quindi però è molto difficile, è molto difficile entrare in un ristorante e dire scusate, dov'è l'abbattitore? No, però chiederlo sì. Allora, per esempio, questi si può chiedere, non è una domanda indiscreta. Insomma, no, una volta a settimana hanno le alici crude, si chiede al ristoratore, ma queste le avete abbattute? Oppure si compra pesce che è stato già direttamente abbattuto a bordo, si dice così. Ora, i ristoranti giapponesi, io penso che non esista un ristorante giapponese senza abbattitore, perché il fatto che loro debbano erogare comunque sempre pesce crudo, se non lo abbatti come fai ad avere il pesce tutti i giorni della settimana, incluso la domenica? Quindi loro ce l'hanno. Il problema è che magari staziona fuori dall'abbattitore lì in Bella Vista per troppo tempo, e allora questo fa formare l'istamina. Quindi benissimo. A quel punto e l'idea è un ristorante, insomma, un po' ci rendiamo conto della qualità di un ristorante da tante, no, da tante caratteristiche. Sì. L'abbattitore però si può chiedere, poi è una domanda che si può fare ed è una domanda lecita e anche dirimente. 800 24 0024, cari ascoltatori, se ci volete chiamare anche su questo argomento, noi siamo qua, tra poco torniamo con la dottoressa Arrasio e parliamo anche del boom di acquisti biologici, cerchiamo di capire se ci fanno bene alla salute, oltre che, diceva Carlo, malissimo male, il portafogli. Traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, quando sono le 9:19 minuti, cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24 per intervenire in diretta e tra poco anche, come sempre, per fare la giuria popolare del crowdfunding. Anche oggi due progetti di iniziative dal basso che chiedono il vostro aiuto, il vostro potenziale finanziamento. Se volete giocare con noi e fare la giuria e decretare il successo o l'insuccesso radiofonico, ma comunque successo di questi progetti, chiamateci 800 24 00 24. Intanto siamo con la dottoressa Deborah Arrasio, dottoressa esperta di alimentazione, abbiamo parlato del mal di sushi, abbiamo chiarito abbastanza, mi sembra. Carlo, hai altri dubbi, tu che sei un amante? No? Abbiamo abbattuto alcuni miei dubbi, perfetto. Senta, dottoressa, invece per quanto riguarda questa moda, questa crescita anche positiva per quanto riguarda la nostra agricoltura, dell'agricoltura biologica in Italia, i dati sono sempre molto positivi, siamo addirittura leader in Europa, però poi si sente sempre dire, gente che non si fida, ma è tutto falso, ci pigliano in giro, saranno vere queste certificazioni? Quanto sono di qualità questi prodotti? Quanto ci fanno bene alla salute? Allora, innanzitutto il biologico è una realtà verso cui tutti noi ci dovremmo sempre più orientare se abbiamo a cuore la salute del nostro pianeta, perché non possiamo immaginare che quello che spruzziamo come veleno, e non è che la parola veleno qui non sia applicabile, in quanto sappiamo che uno dei, per esempio, pesticidi più utilizzati è stato giudicato dall'AIRC, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, come cancerogeno, probabile cancerogeno, e così un suo derivato. Quindi noi questi pesticidi li spruzziamo nell'ambiente, dall'ambiente, dalla terra, penetrano nell'acqua, dall'acqua noi poi ce l'andiamo a bere, e quindi capite che il problema c'è. Quindi lei dice, anche se non è sul singolo prodotto che acquistiamo o non acquistiamo, ma l'agricoltura non biologica troppo carica di pesticidi è chiaramente un male per tutti. Ma è un male, per me è il male assoluto, anche poi sono territori che vengono sfruttati e poi devono essere abbandonati. Invece l'agricoltura biologica tiene la tutela del territorio, ha delle rotazioni, delle coltivazioni, in modo tale che questa terra viene sempre mantenuta fertile. E poi, anche andando sul prodotto, in realtà i prodotti biologici non hanno al 97% residui di pesticidi, per cui l'Italia è uno dei paesi che fa più controlli in assoluto. Quindi questa statistica che lei ci sta citando è frutto di una... Sono tutti controlli che fanno regolarmente in Italia, ma voglio dire, anche prodotti non biologici in genere non superano comunque i livelli ammessi di pesticidi. Però il problema, cioè, nel lungo termine noi dobbiamo pensare che spruzzare, dargli ai nostri bambini. Si è visto, hanno fatto questo studio per esempio in America, che cambiando l'alimentazione dei bambini, inserendo frutta e verdura biologica, la quantità di pesticidi eliminati con le urine nell'arco di una settimana si è nettamente abbattuta. Quindi questo qualcosa vorrà dire, no? Se noi mangiamo tutti i giorni le porzioni che ci vengono raccomandate di frutta e verdura, se tutte hanno pesticidi, poi abbiamo verdure che ne hanno di più, frutta che ne ha di più e altre che ne hanno di meno, quindi magari ci si può anche informare. L'importante però è che il biologico debba avere sapore, perché poi il biologico prevede la necessità di piccole realtà, è difficile farlo su una grande distribuzione. A questo proposito, dottoressa, le voglio fare una domanda. Un'altra tendenza che i numeri segnalano essere in grande crescita è l'acquisto direttamente dal produttore, mercati agricoli, esatto, cose di questo genere. Anche questa è una bella fascinazione, una bella suggestione, una bella esperienza. I prodotti in genere sono saporiti sicuramente, ma si rischia qualche cosa uscendo, diciamo, dal prodotto in sé, dal prodotto del garantito in qualche modo dal supermercato, dallo stesso processo industriale, oppure se è tutta qualità, tutta salute anche in questo caso? Ma no, noi innanzitutto andiamo a conoscere questi produttori, sono nel nostro territorio, quindi questo stabilisce anche un legame con l'azienda, e l'azienda fa vedere come allevano gli animali, come coltivano. In questo senso non c'è nessun problema. Il problema magari può essere se andiamo a prendere in una fiera dei prodotti magari un pochino più a rischio, alcune conserve che potrebbero essere fatte in maniera... Ma guardate che la maggior parte delle contaminazioni comunque le ritroviamo da prodotti che si vanno poi a comprare nei supermercati, perché lì numericamente sono talmente di più che può succedere. Insomma, nelle piccole realtà contadine, artigianali, è difficile poi trovare prodotti che possano in qualche modo nuocere. Viceversa, andiamo a acquistare qualcosa che è sicuramente più fresco e ha più sapore, e se no non vale neanche la pena farlo, e costa anche di meno, perché il fatto di saltare poi tutte le catene intermedie ci consente di acquistare prodotti di qualità ad un prezzo accessibile. Vero, vero, condivido molto. Le faccio una domanda che forse non c'entra drittamente, ma io mi chiedo una cosa: come mai i limoni costano così tanto? Che siano bio o che non siano bio, ma io non ricordo che costassero così tanto fino a 5 anni fa. È una cosa proprio che uno compra due limoni e ti chiedono 3,80 euro. Beh, voi siete a Milano, quindi secondo me fanno più strada per arrivare fino a là dal sud, ma a me pare che ormai... Ci sono anche i limoni tanto del lago di Garda, però, in realtà. Ah sì, sono buoni? pare di sì. No, ma però veramente sui limoni mi sembra... Niente, allora forse è una mia impressione. No, ma lei avrà sicuramente ragione. Forse è perché è un prodotto comunque che non consumiamo in abbondanza, no? È difficile che uno si mangi ogni giorno 3 limoni. E quindi forse speculano su questo. Dottoressa Rasio, approfitto della sua presenza perché c'ho un ascoltatore che forse vuole addirittura fare una domanda. Facciamo questa cosa che non facciamo mai: l'ascoltatore che fa la domanda all'ospite. Però visto che lei è brava e disponibile, Gianni da Roma. Grazie ragazzi, io ascolto con molto piacere. Ho capito che volevi fare una domanda alla dottoressa? Sì. Due domande all'esperta. La prima domanda è: il tonno ha detto che dopo 3 giorni tenuto in frigo non va più bene. Sì. Io lo contesto questo tipo di discorso, perché se il tonno è chiuso in barattoli di vetro e sotto olio e messo in frigorifero, non penso che... Allora, la prima domanda è: il tonno aperto ma richiuso in un barattolo sotto olio si può conservare per più di 3 giorni? Barattolo di vetro, perfetto. Credo che la risposta sia implicita. Sono curioso. La dottoressa parlava di tonno. La scatoletta quella di tonno che si apre, sì, tipo quella del, sì, cibo per cani, insomma, sì, che si tiene poi in frigo aperta. Se lei diceva, no? Quello, cioè sì, la scatoletta. Se la chiudiamo sott'olio, no. Se la chiudiamo quella. Beh, questo è ottimo. Quindi, uno ha una scatola di tonno più grande delle proprie necessità, può travasare il tonno dentro in un vasetto di vetro, coprire fino all'orlo con l'olio. Bravo. E con la modica cifra di 75 euro poterla conservare. Oppure compra direttamente il tonno nel barattolo di vetro e lo consuma un po' per volta, richiudendolo. Gianni, seconda domanda? Secondo me volevo fare la dottoressa: si vendono prodotti biologici nella provincia di Viterbo. Io so che la provincia di Viterbo purtroppo subisce l'arsenico. Com'è possibile che i terreni che poi contengono arsenico, perché le acque dicono che sono ricche di arsenico, poi vengono coltivati con prodotti biologici, e questi prodotti biologici poi hanno certificazione biologica? Cioè, la domanda è se l'arsenico può filtrare. Sì. Sì, l'arsenico non è un pesticida. Allora, il problema dell'arsenico nel Viterbese è un problema serio che hanno solo in parte risolto, nel senso che finalmente sono arrivati comunque a mantenere i livelli sotto la soglia appena cucina magari sotto la soglia. È chiaro che se c'è tanta acqua nell'arsenico, tutto quello che crescerà avrà arsenico, ma non essendo un pesticida rientriamo comunque nei parametri giusti del prodotto biologico. Quindi dobbiamo guardarci, oltre che dai pesticidi con le certificazioni biologiche, anche da altri rischi, questo ci segnala Gianni, come per esempio l'arsenico, che è un'altra cosa, ma che fa male anche quella. Gianni, purtroppo sì. Gianni, se vuole rimanere in linea, tra l'altro noi tra poco giochiamo con i progetti del crowdfunding, se vuole fare il giurato come ascoltatore resti in linia, lo coinvolgiamo subito dopo. Dottoressa Rasio, noi la ringraziamo per molto. Ora. Grazie per averci fatto questo giro di chiarimenti. Grazie, buona giornata. Tante cose. Grazie, buona giornata. Grazie. È arrivato un SMS che dice: con i GAS, che se non ricordo male sono i gruppi di acquisto solidale, quindi quelli che comprano tutti assieme dei prodotti agricoli, limoni a 1,6 euro al chilo. A mio modesto parere qualcosa non va. Catalogabili, consumati a consumare cose inutili, mediocramente soddisfatti e senza scrupoli. Chi non possiede non è. Le cose cambiano nome e con loro le virtù. L'impunità esige che non si ricordi più. La pace a caro prezzo si paga con l'oblio. E per non chiamarli sbirri anche gli altri pregan Dio. A mio modesto parere qualcosa non va. A mio modesto parere qualcosa non va. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è A mio modesto parere degli Strike. Lo sospettavo. Sospettavi il titolo, volta, giusto, sì. Giusto. Come sapete noi cerchiamo sempre dei Si può fare in musica, quindi se siete dei cantautori, dei cantanti, dei musicisti, o anche semplicemente degli ascoltatori e riconoscete in una canzone dove secondo voi il concetto di Si può fare è perfettamente spiegato, allora vi chiediamo di segnalarcela, che noi la facciamo sentire, la mettiamo sui nostri sul nostro sito, sui social, e poi la mandiamo anche in onda. Questa canzone infatti ci è stata suggerita da Roberto come esempio di denuncia sociale attraverso la musica. Potete inviarci le vostre canzoni mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili social, su Facebook sipuofare-radio24 oppure su Twitter @sipuofare24 oppure sui nostri social personali, ovvero il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @LeMaurizzi. Ma come siamo social? Poi tu sei anche su Snapchat. Sì, io anche sento su Snapchat, molta paura quando dici questa parola, perché è molto inquietante questa parola. Io non sono ancora su Snapchat e forse non ci sarò mai. Allora, ascoltatori, ti porteremo. Mi porterete, ascoltatori, se volete giocare con noi col crowdfunding, tra poco due progetti, ve lo anticipo: il Facebook del Cacciavite e uno spazio per il cinema a Milano. Sono due progetti che chiedono il vostro sostegno, tra poco ve li presenteremo. Intanto c'è Flavia che ci chiama da Pordenone. Buongiorno Flavia, benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione, che li sentite sempre, però sono assolutamente dovuti. Grazie. Io chiamo a proposito del call center, sì. Perché dopo il film di Virzì, che penso abbiate visto tutta la vita davanti, vero? Esatto, sì. E avendo, al di là di questo, una sensibilità attenta un po' e rispettosa per il prossimo, ogni volta che mi telefonano per quelli del call center cerco di prestare attenzione, di essere gentile anche se sono di fretta, eccetera, perché immagino la fatica di queste persone che si sentiranno aggredite, che qualcuno risponde loro male, eccetera, eccetera. E quindi sono particolarmente gentile, ma mi è capitata una cosa incredibile, cioè? Dopo aver ascoltato la loro proposta, eccetera, e dopo aver detto grazie, molto gentile, non mi serve nulla, non posso ripetere alla radio, ma mi sono sentita mandare a far... insultata in un modo che giuro sono rimasta malissimo. Ma dall'operatore del call center? Assolutamente sì, era un ragazzo. Questo è un record però, Flavia, perché giuro, infatti quando lo racconto, cioè in genere sono pedanti, insistenti, non capiscono, però mandarti a quel paese no. Ammetto che ultimamente invece a volte diventano aggressivi, comprendo anch'io il loro lavoro, il fatto che probabilmente stanno lavorando un sacco di ore sottopagati, però l'essere aggressivi... La domanda difficile, Flavia, la domanda difficile, dirimente: secondo lei questo call center chiamava dall'Italia o dall'estero? Assolutamente dall'Italia. Dall'Italia, perfetto. Sì, assolutamente dall'Italia. questo episodio non ha fatto sì che io butti giù il telefono, sia maleducata, però cerco sempre di proteggermi eventualmente se dovesse ricapitarmi una cosa del genere. Va bene. Giusto, brava, giusto. Va bene, grazie, grazie Flavia. Mille per la sua grazie. Testimonianza. Beh, qui grazie. Tocchiamo un vertice, insomma, nella sì. molestia e nei problemi con i call center, essere mandati a quel paese. Magari pensava fosse un'altra persona, vogliamo giustificarlo così? Che dice no, pensavo fosse la mia ex fidanzata, allora sto scherzando ovviamente. È possibile, tutto è possibile. Fabrizio da Firenze, con i call center tutto è possibile. Vai Fabrizio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, avevo chiamato per la sindrome di Combroide che io ho avuto 9 anni fa quando non la conosceva quasi nessuno. E tra l'altro medici che uno gli chiede cos'è la sindrome di Combroide non sa nessuno. Adesso però ho sentito che parlavate di nuovo del call center, avevo fatto un messaggio prima. Io del call center ho avuto una sorpresa, perché normalmente una Vodafone risponde all'Albania. Un giorno mi parlano in italiano, insomma, ho finalmente un call center in Italia, dice no, sono in Albania, ma siccome io non ho lavoro mi sono trasferito in Albania, non sapevo che qualche italiano pur di lavorare va in Albania a fare il call center in Albania. Vabbè Fabrizio, anche questa non è male, devo dire la verità, perché al di là della sua esperienza è interessante in questo caso l'esperienza dell'operatore del call center. Sì, cioè un italiano che si trasferisce in Albania per lavorare finalmente comodamente in un call center. Beh, del resto devo dirvi a tutti che stamattina leggendo su Repubblica il reportage che parla proprio dei call center in Albania, quando scopri che, adesso non lo trovo più, ma insomma l'affitto a Tirana costa un terzo di quello che costa in Italia, chiaramente anche lo stipendio in qualche modo proporzionato ti consente di sopravvivere meglio forse che con 800 euro a Roma. Certo. E questa è un po' la realtà. Quindi niente, abbiamo anche un ascoltatore che segnala questo tipo di esperienza. Ne abbiamo di chiamate, poi dobbiamo scegliere lo scatolò, il cervellone della redazione si può fare, deve stare... La migliore telefonata. Ve lo diremo soltanto alla fine. Adesso invece tra poco crowdfunding. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Apple. Eccoci qua, cari ascoltatori, è il momento di dare una mano a due progetti che chiedono il vostro aiuto. Si tratta di idee che sono sulla piattaforma di Eppela e che oggi dovranno sfidarsi per convincere la nostra giuria popolare composta da 3 ascoltatori che tra poco sentiremo. Allora, gli ascoltatori giurati non ce l'abbiamo ancora, tutti e 3 li presentiamo tra poco. Cominciamo a presentare i progetti. I progetti. Allora, il primo progetto si chiama Tool Sharing ed è stato ribattezzato il Facebook dei cacciavite. È il primo network per la condivisione degli strumenti da lavoro che dà la possibilità appunto a tutti coloro che hanno dell'attrezzatura di condividere con chi invece ne ha bisogno. Per finanziare lo sviluppo di questa piattaforma però servono 7.000 euro. Il portavoce del progetto è Tommaso Pardi, che è anche il cofondatore di Tool Sharing. È qua con noi, ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo ancora. Anche oggi abbiamo problemi con la rubrica del crowdfunding. Tutte le volte è così, non so ma perché. Passiamo a presentare il secondo progetto. Sì. Il secondo progetto si chiama I Want, come si dice in inglese? Cinewall. Sì. Cinewall. E nasce I Want Cinewall. Allora, diciamolo bene, nasce per realizzare uno spazio culturale nel sud di Milano. È dedicato al cinema e alla cultura. Il progetto prevede anche la costruzione di un pulmino attrezzato per portare le proiezioni nei cortili, nei quartieri più periferici, nelle zone della città dove il cinema è assente. Un progetto ambizioso che ha bisogno di 50.000 euro per crescere. Ce ne parlerà tra poco il responsabile di Wanted Cinema, che è la casa di produzione, Lorenzo Fantini. Adesso io non so chi abbiamo in linea. Non abbiamo in linea nessuno. Sì, abbiamo in linea. Chi abbiamo in linea? Regia? Non sento, non so, non capisco. Non... Abbiamo Tommaso Pardi di Tool Sharing. Ciao Tommaso, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, grazie. Caro Tommaso, tra poco... ma i giurati ce li abbiamo in linea? Li stiamo contattando? Perché se non abbiamo i giurati all'ascolto... Vabbè, facciamo noi la giuria. Facciamo noi così. Tu hai un minuto, come sempre, per convincere non solo i giurati, ma anche noi e gli ascoltatori del perché dovremmo investire nel sul tuo progetto. Tool Sharing, vai Tommaso. Allora, grazie a tutti. Il tool sharing è un nuovo modello economico, un modo social di accesso ai beni con la tecnologia alla portata di tutti, basato sullo sharing, quindi su regole precise e la conoscenza di tutte le caratteristiche di un bene e di un servizio. Perché questo? Perché oggi stiamo vivendo in un momento economico abbastanza critico per quanto riguarda le aziende edili, le aziende dell'agricoltura, ma anche per i privati, possiamo dirlo. Cosa succede? Abbiamo attrezzature ferme in magazzino. Per le aziende ci sono appalti sempre più brevi e di minore importo, dall'altra parte la necessità di avere macchinari moderni, efficienti e specifici, anche per la questione della sicurezza sul lavoro, ma anche per la certezza dei pagamenti. Un esempio di questi beni inutilizzati o fermi lo abbiamo tutti i giorni in casa. Per esempio, ognuno di noi ha un trapano e nella nostra vita il trapano lo usiamo solo per 15 minuti. Da qui l'idea di fare un'economia circolare, di valorizzare questo enorme patrimonio che privati, aziende, agricoltori, ma anche pubblica amministrazione ha. Ecco l'idea di tool sharing. Quindi un appello che facciamo è quello di sostenerci, aiutarci a costruire insieme. Va bene, questa piattaforma sei andato quasi sul gong, quindi esatto. Bene, Tommaso. Io apprezzo moltissimo, non si può dire, perché io intanto non sono un giurato, sì. Apprezzo moltissimo la storia del trapano, che è veramente l'esempio per tutti, che tutti quelli che hanno, io non ce l'ho il trapano e lo devo sempre chiedere, quindi se esiste un modo per poterlo chiedere a quello che è vicino a casa tua invece che andare a prenderlo a mio fratello che è dall'altra parte della città, mi piacerebbe molto. Sulle ricompense avete qualcosa da spiegare ai potenziali sostenitori di questa iniziativa di crowdfunding, che come sempre prevede un piccola ricompensa per chi dà un aiuto a voi? Sì, abbiamo pensato alla ricompensa per chi crede veramente nel progetto e quindi vuole sostenere a partire da 5 euro, ma anche per l'azienda che vuole fare del suo magazzino un tool sharing point. Sì. Quindi la possibilità con a 200 euro, 250 euro di essere parte attiva, l'azienda di mettere il proprio magazzino. Oppure il privato che con 20 euro ha la possibilità di aprire il suo garage e mettere questo famoso trapano a disposizione di tutti e quindi guadagnare anche quando non lo usi, ma soprattutto risparmiare quando utilizzi il giusto strumento. Quindi ricompensa attraverso il coinvolgimento nella piattaforma stessa, e questo era tool sharing. Abbiamo i giurati, che dovrebbero essere Dino da Salerno, Flavia da Pordenone, Gianni da Roma. Eccoli qua, li salutiamo tutti con un saluto collettivo e gli chiediamo di rimanere in linea per ascoltare anche il secondo progetto che abbiamo già presentato e che è I Want Cinewall. Lo abbiamo già presentato prima con Lorenzo Fantini, che a cui diamo il buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno anche a te, Lorenzo, diamo un minuto di tempo per spiegare perché bisognerebbe sostenervi questa iniziativa che mira a creare uno spazio culturale per il cinema, in particolare a Milano. Vai. Sì, allora, perché? Perché andare apparentemente controcorrente con un sogno abbastanza folle, cioè in un momento in cui tutti i cinema chiudono o si raggruppano in multisale, provare ad aprire innanzitutto nella città dove viviamo, cioè Milano, ma in un futuro noi speriamo anche poter creare una rete analoga in tutta Italia, perché aprire una nuova sala cinematografica? I cinema chiudono e le persone, anche noi, stanno sempre più volentieri a casa a guardarsi le serie TV e i film in streaming. Noi abbiamo pensato invece di fare così, di creare questa utopia, però speriamo si realizzi con tutti i nostri sforzi, perché crediamo che chi ama il cinema, e siamo tantissimi, forse diciamo che non si può vivere senza amare il cinema, ama il cinema anche inteso come sala. Il cinema vero, l'amore per il cinema non può esistere in un altro posto che non sia una vera sala, cioè un luogo dove ad un certo punto si chiude alle nostre spalle. Sento la linea disturbata, spero che non ci siano problemi. No, era il gong, era semplicemente il gong che stava segnalando il fatto che hai finito il tempo a disposizione, Lorenzo, però puoi finire, ti diamo ancora qualche secondo, prego. Grazie, no, perché il cinema è il momento in cui si chiudono le tende rosse dietro di noi, in cui spegniamo i cellulari, in cui la luce si abbassa e in cui veramente possiamo dare vita ai nostri sogni e alle nostre fantasie, ma soprattutto condividerle con altre persone accanto a noi. Ecco, perfetto. Quali sono le ricompense? Quali sono le ricompense per chi vi aiuta a raggiungere i 50.000 euro di cui avete bisogno? Ecco, le ricompense sono tante e naturalmente anche per chi non vive a Milano, perché noi, come dicevamo, abbiamo il sogno di poter poi ricreare in tutta Italia di nuovo. Quali sono le ricompense? Cosa date a chi vi sostiene? Allora, le ricompense sono, una delle cui teniamo di più è un pensiero romantico, regala e dedica un film alla tua fidanzata, cioè i nostri film, in testa a tutti i nostri film che distribuiamo anche in tutta Italia, perché noi siamo anche distributori di cinema, una dedica per una esempio. Dedica, per una dedica, va bene, fermiamoci qua, il resto lo troviamo naturalmente su Apple, ma anche sul sito di Radio 24, la pagina si può fare Cloud Me Up. Giurati, cari giurati, allora cominciamo con Dino da Salerno che ci ha chiamato prima per parlare della sua esperienza nei call center. Dino, caro, quale dei due progetti ti ha convinto di più, Tool Sharing o I Once in a Wall? Ma io penso il secondo. Cosa sul cinema? Ti piace il cinema? C'è abbastanza, sì. Va bene, bisogno di spazi e di cinema. C'è un motivo particolare, Dino, per cui ti ha convinto di più? Ma no. Non lo so, per il fatto mi sembra che si parlava del cinema all'aperto, che io per un momento mi sono assentato, di cinema all'aperto, giusto? Si parlava di uno spazio dove proiettare anche delle autoproduzioni e comunque fare del cinema con creatività. Bene, questo è il voto di Dino. Il voto invece di Gianni da Roma, che anche lui è intervenuto poco fa parlando di un altro argomento, cibi congelati, se ricordo bene, vero Gianni? Eri tu? Esatto, intanto preferirei che si usassero meno inglesismi. Bravo. Seconda cosa, tra i due il primo forse lo vedo più utile. Il Facebook del cacciavite. Esiste, inglesismo ancora, insisti pure tu con... Facebook come facciamo a tradurlo? È un nome, così, si dice così. Tu hai spesso bisogno di attrezzi, Gianni, ti capita? Non so detestare l'inglese in Italia. Cominciamo a parlare, e poi che è un inglese nemmeno corretto quello che spesso che parliamo. Vabbè, comunque, lasciamo perdere le mie critiche sulla lingua italiana. Vabbè, comunque, noi su questo siamo pronti, siamo apertissimi, perché noi la campagna sull'italiano, dillo in italiano, anche l'hashtag abbiamo fatto. Sentiamo la crusca ogni due per tre. Oh, però siamo a un pareggio, quindi decide tutto Flavia da Pordenone, che non abbiamo ancora sentito, è la terza giurata. Flavia, buongiorno. Buongiorno. E che poi farà anche il suo intervento dopo il traffico, se vuole restare con noi. Intanto, Flavia, quale dei due progetti ti ha coinvolto di più? Assolutamente, e mi dispiace per i cacciaviti e per i prestiti, ma assolutamente il cinema. Io sono una cinefila, per cui il secondo intervento ha assolutamente è entrato nel mio cuore. Perfetto. Io, cinema, assolutamente, sperando che davvero questa cosa possa arrivare anche a Pordenone. Bah, fantastico. Allora, Carlo, falla tu la proclamazione, vince... Vince il progetto del cinema. I Want Cinewall, bravo Lorenzo, ma insomma Fantini, ma anche Tommaso Parti di Tool Sharing, naturalmente, perché questo è solo un gioco. Tutti e due i progetti li trovate sulla piattaforma di Apple. Se vi hanno convinto, andate e sosteneteli. Sono due piccole storie con un grande cuore, come sempre si può fare a Cloud Me Up su Radio 24. Noi andiamo avanti, grazie a tutti. Grazie. A dopo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Quando sono le 9:50 minuti, cari ascoltatori, torniamo in diretta. Possiamo dire che oggi il crowdfunding ha vinto il sogno sulla realtà, il cinema sul cacciavite, sulla piattaforma di scambio di strumenti, che insomma invece sicuramente avrà un grande futuro anche questo progetto, come tutti quelli che stiamo presentando in queste settimane con Crowd Me Up. Anche perché usare comunque un trapano è un sogno, poi riuscire a farsi portare il trapano dal vicino. Possibilmente col vicino che lo usa lui, così è proprio perfetto. Allora, non so se abbiamo Flavia da Pordenone, ce l'abbiamo o no, non ce l'abbiamo, che era in nostra giurata in linea per fare il suo intervento. Abbiamo invece Ugo da Torino. Ugo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Prego, sinteticamente, Ugo. Sono un operatore del settore del biologico. Sì. E per quanto riguarda il prezzo dei limoni, Vi vorrei dare un dato. In Francia e in Germania, dove c'è cultura da parte dell'acquirente, il consumatore, sì, i prodotti biologici costano dal 20 al 25% in più di un prodotto normale. E in Italia? Questo è il flash che vorrei mandare. Sì, sì, grazie, flash, pam, ricevuto. No, diciamo, facciamo un passo indietro, perché Carlo prima, parlando con la dottoressa Rasio, gli ha detto: ma come mai i limoni costano così tanto? Lei non sapeva dare una risposta perché non è il suo campo, lei è un'esperta di nutrizione. Allora interviene l'ascoltatore che dice: in Francia e in Germania, io però non ho capito, ma in Italia quanto di più costano? Anche il doppio, solo che noi italiani siamo molto brillanti. Quindi lei dice, in Italia il bio, nel caso dei limoni, fa raddoppiare il prezzo in una maniera ingiustificata. Il mercato del biologico costa il doppio che non in Francia e in Germania, certo, dove il consumatore ha cultura, sì, e se trova prezzi fuori mercato, sì, non lo compra. Non lo compra. Invece noi siamo creduloni, questa è la sua teoria, e compriamo tutto. Questo è? La teoria è un dato riscontrabile. Informandosi su quelli che sono i prezzi medi di mercato. Certo, io in realtà la questione dei limoni, secondo me i limoni sono cari sia che siano biologici sia che siano, non so, antibiologici, perché sono cari comunque, però chiaramente se diventano biologici è un caro ancora più doppio, cari, certo, è un caro gara doppia. Ugo, ho capito bene, che lavoro fai esattamente nel campo della filiera biologica? Io mi occupo di organizzazione aziendale e ho curato per molti, sì, anni la ristrutturazione di un'importante azienda del settore in Italia. Di conseguenza, facendo del benchmark sul mercato nazionale e sul mercato internazionale, ho riscontrato queste cose. Il mercato francese e quello tedesco, il consumatore ha una sua cultura e anche una sua, come dire, capacità di scelta. Di conseguenza fa che il mercato libero, i prezzi abbiano il reale valore che devono avere. Benissimo, benissimo. Grazie Ugo. Siamo quasi in chiusura, eh? Siamo quasi in chiusura. Ci sono dei messaggi che vogliamo, qualcosa che vogliamo leggere, vediamo un po'. Dobbiamo dare il vincitore del assolutamente, giusto. Allora, aspettavamo fino all'ultimo dicendo vediamo se arrivano nuove storie di call center. Rullino i tamburi, suonino, squillino le trombe. Il vincitore di oggi del nostro gioco chi è? Fabrizio da Firenze? Fabrizio, sì, da Firenze, signori, che ha chiamato, intanto che si è beccato la sgomberoide qualche anno fa. Quindi e poi anche solamente così, per riparare. Gli vogliamo bene, poverino. E poi ci ha raccontato la sua esperienza straordinaria al call center. È stato l'operatore del call center che in qualche modo si è confidato con lui e gli ha raccontato che si era trasferito dall'Italia all'Albania proprio per fare quel lavoro lì. E cioè, è un italiano, il consulente è albanese, sì, ma anche l'operatore, il dipendente, cioè l'operatore è italiano che è andato in Albania per trovare lavoro o per non perdere il suo lavoro che aveva qua. E cioè, non è una cosa che capita tutti i giorni al call center di sentirsi raccontare una storia come questa. Benissimo, lui si porta a casa i biglietti della mostra di Escher al Palazzo Reale di Milano. Una delle mostre organizzate dal gruppo 24 ore. Noi siamo lieti di fare questo annuncio e anche dare l'appuntamento a domani, con Si può fare 8:30-10. Un ringraziamento al nostro autore Andrea Piana, a Claudia Schiattone, a Filippo Reggi oggi in regia. Niente, ci risentiamo domani. Buon sabato e a domani. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao anche a chi ci ascolta in podcast.